Intanto ci tengo a dire che è uno dei momenti che organizziamo in collaborazione col COSPE, noi di WeWorld, siamo le due organizzazioni che da 17 anni portano avanti il Terra di Tutti Film Festival, e in questo momento quello che volevamo creare era un vero e proprio dibattito a più voci, per parlare di tutti i volti della partecipazione, soprattutto della partecipazione giovanile e delle nuove cittadinanze. Quindi sarà un dibattito dove politica, attivismo e arte si alterneranno per raccontare quali sono le diverse forme che la partecipazione può assumere, tutte quante con un obiettivo comune, ovvero quello di sradicare le disuguaglianze e chiedere pari diritti per tutti e tutte. L'intera mattinata, che inizierà alle 10, sarà moderata da Sabika Sayapova, che è una giornalista con cui noi collaboriamo da molto tempo e che quindi farà da fil rouge di questa giornata, che, come dicevi giustamente anche tu, sarà formata da tre atti. Il primo momento, che si intitola Libertà e partecipazione, le sfide della partecipazione politica nel panorama europeo, parla proprio di come la politica nazionale, locale, internazionale può intervenire e deve intervenire all'interno di questo dibattito, e quali sono anche le iniziative già in atto da una città come quella di Bologna, come a città e centri più piccoli, attraverso punti di vista diversi. Quindi avremo presenti personaggi dal mondo dell'attivismo, segretario nazionale dal PD Marwa Maud, avremo Simo Abed Kabur, che è il consigliere comunale di Genova, e del CONGI. Quindi ci saranno diverse personalità che affronteranno la politica con diverse sfaccettature. Successivamente lasceremo spazio alla visione All'ora alternativa, che è una serie che ha prodotto WeWorld, che parla ed esplora il mondo dei ragazzi più giovani nel passaggio difficile tra l'età dell'adolescenza, della preadolescenza, e l'età adulta. Che cosa significa rendersi conto di quanto la partecipazione sia importante? E la giornata si concluderà con le forme artistiche come strumento di partecipazione e narrazione. Avremo due ospiti, Wissal Ubabi, poetessa, artista e scrittrice, che farà anche una performance all'interno della giornata, e Nalini Vidola Motsami, che è una drammaturga teatrale con cui abbiamo già noi di WeWorld avuto il piacere di collaborare, e che racconterà il suo percorso e come utilizza l'arte e la drammaturgia, nella fattispecie, come forma di partecipazione attiva, civica e politica. Ecco, insomma, un evento davvero eterogeneo, come raccontavi tu, anche con gli ospiti che saranno presenti. Darete voce veramente a più prospettive differenti tra di loro, sia artistiche che personali. Come mai questa scelta? Ecco, perché avete scelto di dare più voci appunto alla partecipazione? Per noi di WeWorld è un tema fondamentale la partecipazione delle persone, soprattutto delle persone più giovani, come poi traspare anche dall'intero festival, delle attività e dalle proiezioni che saranno in sala al Centro Costa e in altre aree della città di Bologna. E soprattutto dare voce a quelle che sono le nuove cittadinanze, le nuove generazioni, che sono parte integrante della nostra società. Quindi cercare di capire attraverso attori differenti quali possono essere le attività e i ruoli che ogni attore può ricoprire, per cercare quindi di avere una società che sia aperta, moderna, e sradicare appunto diseguaglianze che sono magari tuttora in atto, e cercare anche di capire gli strumenti attraverso cui si può fare, quindi gli strumenti che dicevamo politici, gli strumenti dell'attivismo civico, ma anche e soprattutto forme artistiche come quelle che il Terra di Tutti Film Festival porta avanti da 17 anni, perché anche uno strumento come il cinema, la narrativa, la letteratura, l'arte e la drammaturgia sono strumenti di partecipazione, sono strumenti attraverso raccontare delle storie, attraverso cui raccontare punti di vista che non sempre sono punti di vista nei quali magari ci rivediamo, ma attraverso queste forme artistiche sono punti di vista che possiamo comprendere, capire e soprattutto generare un interesse maggiore e una conversazione all'interno di una piazza, di una platea e quindi di una società. Anche questo evento, tra l'altro, sarà ad ingresso gratuito, ci tengo sempre a sottolinearlo perché insomma è una bella cosa del Terra di Tutti Film Festival, e ricordo ancora una volta che sarà al cinema Lumière questo sabato dalla mattina per poi proseguire durante la giornata. Sì, l'evento Nuove Cittadinanze, il diritto alla partecipazione, sarà sabato 7 ottobre a partire dalle 10 al Cinema Lumière, quindi in Viazzo Gardino 65, che rappresenta un po' il cuore di quelle che sono soprattutto le proiezioni filmiche del Terra di Tutti Film Festival. Ci teniamo anche a dire, come WeWorld e come Coste, che ci saranno una serie di attività portate avanti sia all'interno della sala, con dei dibattiti che apriranno e chiuderanno le proiezioni, ma anche per esempio al Centro Costa, in modo tale che le persone possono anche scegliere di fruire diverse tipologie di formule. Quindi la nostra idea è poter permettere alle persone di partecipare nella maniera più dinamica possibile all'interno di una città come quella di Bologna. Quindi possono vedere un dibattito, discuterne insieme bevendo qualcosa, spostarsi poi al Cinema Lumière, vedere una proiezione e far sì che quindi sia un evento aperto e collettivo. Per questo ci teniamo ogni anno che sia un evento gratuito e aperto a tutte le persone che vogliono partecipare. E mi raccomando, vi aspettiamo al Terra di Tutti Film Festival dal 5 all'8 ottobre e sul sito terradituttifilmfestival.org potete scoprire il nostro programma completo e vi aspettiamo. Grazie ancora.